Runtime Radio presenta Ich bin ein Violino. De Lenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. Terminado. Siete años interminables de dolor, de muerte, de torturas y vejaciones. Héroes y mártires vencedores son la expresión más alta del pueblo. Cuba, 8 de enero de 1959. La multitud aclama a los triunfantes revolucionarios. Al centro Fidel Castro, líder indiscutible del movimiento. A su lado derecho el comandante Camilo Cienfuegos, muerto en un misterioso accidente en octubre de ese año. Y a su lado izquierdo, el comandante Huber Matos, enviado a prisión por 20 años y borrado de la historia oficial cubana en diciembre de 1959. Yo luché en la Sierra Maestra y antes de la Sierra Maestra luché frente a la dictadura de Batista. Por el regreso de Cuba a la democracia, a la vigencia de la libertad y al respeto a todos los derechos de la ciudadanía en el contexto del sistema democrático. 8 gennaio 1959, La Habana. Le forze rivoluzionarie vittoriose entrano nella capitale cubana, dopo la fuga del dittatore golpista Fulgencio Batista. Tre comandanti sono alla guida della marcia e passeranno alla storia: Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Huber Matos. Sono immortalati insieme nell'immagine che più di tutte rappresenta la vittoria rivoluzionaria contro la dittatura di Batista, una fotografia che pure passerà alla storia. Meno di 9 mesi dopo, questa fotografia sembrerà lontanissima nel tempo. Il 28 ottobre 1959, Camilo Cienfuegos, uno dei protagonisti in assoluto più amati dai cubani, morirà in un misterioso incidente aereo, dopo essersi recato ad arrestare, per ordine di Fidel Castro, il suo amico e commilitone Huber Matos. Egli obbedirà a malincuore, si scuserà con Matos e farà subito dopo una telefonata burrascosa a Fidel, in cui lo accusava di aver creato egli stesso le tensioni di cui accusava gli altri. La settimana dopo prenderà l'aereo per La Habana, dove però non arriverà mai. Il mese dopo, nel dicembre del 1959, Huber Matos, fino a poco prima eroe acclamato nelle piazze, sarà incarcerato come traditore e condannato a scontare 20 anni di reclusione. Gli altri due protagonisti di questa storia sono l'argentino Che Guevara, che pure farà da lì a poco una fine tragica, e Raul Castro, fratello di Fidel. Come avrete capito, ci occuperemo oggi della rivoluzione cubana, ma cercheremo di raccontarne gli aspetti meno noti, assai spesso diversi dalla propaganda che è stata raccontata dai vincitori e accettata in Europa essenzialmente ad opera di intellettuali francesi e, a ruota, di alcuni intellettuali e personaggi influenti nei media nel nostro paese. In particolare, ripercorreremo le memorie di Huber Matos, che è stato l'unico sopravvissuto dei 5 comandanti della rivoluzione, oltre ai fratelli Castro. Matos uscirà di prigione dopo aver scontato fino all'ultimo giorno i 20 anni di condanna inflittigli, dopo aver subito torture ed umiliazioni, grazie e solo grazie all'intermediazione del Costa Rica, dove verrà esiliato e dove renderà pubbliche le sue memorie e molti documenti sulla rivoluzione, che però, curiosamente, non sono mai stati tradotti in inglese o in italiano. Uber Matos era un insegnante e un imprenditore coltivatore di riso della città di Manzanillo, nella parte est di Cuba. Militante, come Fidel Castro, del Partito Ortodosso Cubano e, dopo il golpe di Fulgencio Batista, del movimento fondato da Castro, cosiddetto del 26 luglio. Facciamo però un passo indietro. Il sergente Fulgencio Batista Isaldivar guidò nel 1933 il colpo di Stato che rovesciò il governo di Carlos Cespedes, detenendo il potere effettivo fino al 1940, quando sarà eletto presidente, carica che conserverà fino al 1944, quando lasciò il paese per trasferirsi in Florida. Il 10 marzo 1952, conscio che le elezioni che si sarebbero tenute dopo meno di 3 mesi molto probabilmente avrebbero visto la vittoria del Partito Ortodosso, o Partito del Popolo, Batista organizzò un nuovo colpo di Stato, rovesciando il governo. Il Partito Ortodosso, quello che fu in questo modo scippato della vittoria elettorale, era un movimento con diverse anime interne, anche molto diverse fra loro, che con una terminologia moderna potremmo definire populista, che oltre a Uber Matos accoglieva nelle sue file, come visto, anche lo stesso Fidel Castro. Mentre la maggior parte dei cubani inizialmente reagì con indifferenza al golpe, Uber Matos fu tra i pochi che scesero in piazza da subito dopo tali eventi. Il 26 luglio del 1953 avverrà la prima seria azione della rivoluzione. I guerriglieri guidati da Fidel Castro prenderanno d'assalto una base militare presso la caserma Moncada a Santiago di Cuba, al fine di procurarsi le armi necessarie per una vasta azione insurrezionale. L'assalto era pianificato in maniera assai approssimativa e non aveva alcuna possibilità di successo, ed infatti venne facilmente respinto. Fulgencio Batista risponderà a questo attacco in modo brutale, con torture ed uccisioni, e di fatto catapulterà Castro in un ruolo di leadership nella lotta contro il governo. Fidel Castro sarà arrestato e condannato a 15 anni di reclusione, ma verrà rilasciato dopo solo un anno per amnistia. Appena rilasciato, Fidel riparerà in Messico, dove, insieme al fratello Raúl e all'argentino Ernesto Che Guevara, creerà un nucleo rivoluzionario, il Movimento 26 luglio, con l'obiettivo di riprendere la lotta armata nell'isola. Il 2 dicembre 1956, con un manipolo di 80 uomini trasportati dal piccolo yacht Granma, Fidel Castro sbarcherà clandestinamente nella provincia cubana di Oriente, dove stabilirà una prima base guerrigliera sulla Sierra Maestra. Intanto Matos era indeciso se unirsi al nuovo eroe ribelle, ma decise solo dopo alcune riflessioni di aderire al suo movimento, essenzialmente per la presenza di molti dei suoi studenti fra le sue file. Matos cominciò da subito ad usare la sua attività di imprenditore come copertura per collaborare con i ribelli nella Sierra, inviando armi, medicinali e combattenti con i suoi furgoni, finché nell'aprile del 1957 fu egli stesso scoperto ed arrestato. Riuscì poco dopo, miracolosamente, a fuggire per entrare in clandestinità e collaborare con i rivoluzionari. Si rifugierà da qui a poco in Costa Rica e, dopo 10 mesi, tornerà a Cuba portando con sé armi ed equipaggiamento sufficienti per un'intera colonna, la numero 9, di cui prenderà il comando. Nel frattempo, nonostante alcuni rovesci iniziali, il movimento guadagnò terreno durante il 1957, trovando appoggi tra i contadini della Sierra, pure colpiti dalle rappresaglie delle truppe di Batista. Tra il febbraio e il marzo del 1958, i guerriglieri aprirono 2 nuovi fronti nelle montagne delle Scambrai e nella Sierra Cristal ed aprirono una stazione radio, Radio Rebelde, incitando, senza successo, la popolazione allo sciopero generale che era previsto per il 9 aprile. La svolta decisiva, che segnò il successo definitivo della rivoluzione, si dovette al fallimento della massiccia offensiva di Batista dell'estate del 1958. 1958 nella Sierra Maestra, seguito dal moltiplicarsi della guerriglia nelle province centrali ed orientali dell'isola, mentre il movimento si collegava con le forze dell'opposizione clandestina all'interno delle città. Il 7 novembre Fidel Castro lasciò la Sierra per lanciare il colpo mortale contro le truppe di Batista. In poco più di un mese i partigiani castristi occuparono numerose città, iniziando l'accerchiamento di Santiago di Cuba ed aprendosi la strada verso La Habana. Matos, con la colonna 9, combatterà e metterà in fuga il tenente Sanchez Mosquera Ferire, storico nemico del Che, ed arriverà poi a conquistare Santiago, la seconda città dell'isola, aprendo definitivamente la strada per la capitale. Incalzato dagli eventi, il 1 gennaio 1959 Batista rassegnerà le dimissioni, abbandonando definitivamente il paese, e il giorno seguente le prime colonne di guerriglieri entrarono nella capitale. Dopo il trionfo della rivoluzione, nel gennaio 1959, Matos fu nominato governatore militare della regione di Camagüey, la principale regione di bestiame dell'isola. Fino a quel momento, il movimento del 26 luglio non aveva avuto molto a che fare con il comunismo. C'erano dei singoli certamente legati al comunismo, come Raúl Castro e Che Guevara, oltre ad alcuni membri di secondo grado dell'esercito ribelle. C'era anche, ovviamente, un partito comunista, il Partito Socialista Popolare, che ebbe un ruolo attivo nella vita culturale del paese, con figure come il poeta Nicolás Guillén, ad esempio, o Juan Marinello, ma che non ha mai avuto molte possibilità di ottenere il potere. Nulla di lontanamente paragonabile, ad esempio, ai partiti comunisti, italiani o francesi. Ma, nel 1959, Fidel Castro, già al potere, finirà per abbracciare l'ideologia comunista, dopo aver negato molte volte di essere comunista, di voler prendere il potere o di essere un dittatore. In particolare in un tour che fece negli Stati Uniti, cosparso di interviste ai giornali ed apparizioni televisive. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. There is not communism or Marxism in our ideas. Quello che Cuba sabe che il governo revolucionario non è comunista. I am not communism. I am not agree with communism. My ads proof for the press in Cuba. The press in Cuba is finished with us. Censorship. There is no doubt about free press is the first enemy of dictatorship. I have said very clear that we are not communists. Not permitting that any dictatorship come again to rule our country. You can be surely that Batista is or will be the last dictator of Cuba. Will be the last dictator of Cuba. How do I will explain? Never be against any right. That is my thinking in politics. Very I am good. Not communist at all. Think in politics. Very I am good. Not communist at all. Egli disse infatti: quando la guerra sarà finita, noi militari non potremo occupare posizioni politiche. Dobbiamo essere i guardiani morali della rivoluzione. Il nostro dovere è mantenere le promesse che abbiamo fatto al popolo. Questa sua adesione incondizionata al comunismo era certamente dovuta, almeno in parte, al consiglio di suo fratello Raúl e del loro caro amico Che Guevara. Ma il motivo principale fu di natura opportunista. Castro voleva causare i maggiori danni possibili agli Stati Uniti, che considerava, come molti nazionalisti cubani, il protagonista malvagio che non avrebbe mai permesso una Cuba indipendente. L'avvicinamento all'Unione Sovietica fu una necessaria conseguenza. Egli era infatti consapevole che una disputa con gli Stati Uniti, ed in particolare la campagna di espropri di centinaia di imprese americane nell'isola che aveva in mente e che poi attuò, avrebbe avuto dure conseguenze economiche, e quindi ritenne opportuno trovare un partner commerciale alternativo per lo zucchero cubano. E l'Unione Sovietica era l'unico candidato possibile. Questa decisione porterà alla scissione del movimento del 26 luglio. Alcuni di coloro che non avevano mai veramente pensato che il loro leader si sarebbe spostato verso la sinistra totalitaria sono rimasti a Cuba nonostante tutto. Molti altri hanno lasciato il movimento rivoluzionario. Tra questi il più noto è stato il protagonista del nostro racconto, Huber Matos. Matos era infatti convinto che il ruolo dei militari sarebbe stato temporaneo e che il potere sarebbe stato consegnato alla società cubana per la costruzione di una democrazia pluralista. Come abbiamo già detto, Matos venne nominato governatore generale della provincia di Camagüey, ma si trova da subito in forte disaccordo con le politiche di Castro, che prima diventa primo ministro, poi depone il presidente Urrutia e infine nomina ai vertici delle forze armate e dell'economia il fratello Raúl e Che Guevara, che rappresentano l'ara marxista-leninista della rivoluzione. Inoltre, Castro comincerà a macchiarsi delle cose che imputava al deposto Batista, con processi sommari ed esecuzioni diffuse, cose che crearono profonde remore in Matos. Egli infatti disse: quando vidi che la rivoluzione andava nella direzione sbagliata, mi sono detto, me ne vado, non posso essere responsabile di quello che sta succedendo. Uber Matos invierà una prima lettera di dimissioni a Fidel, ma racconterà: Fidel mi ha ricevuto all'Hilton Hotel, era molto affettuoso. Le tue dimissioni a questo punto non sono accettabili, mi disse. Abbiamo ancora troppo lavoro da fare. Ammetto che Raúl e Che stanno flirtando con il marxismo, ma tu hai la situazione sotto controllo. Dimentica le dimissioni. Ma se tra un po' credi che la situazione non stia cambiando, hai il diritto di rassegnare le dimissioni. I mesi passarono, ma il governo moderato e democratico per cui aveva combattuto diveniva sempre più lontano. E quindi Matos rassegnerà di nuovo le dimissioni, in modo peraltro molto pacato. Infatti scriverà: non voglio diventare un ostacolo alla rivoluzione. E credo che l'opzione onorevole e rivoluzionaria sia quella di dimettersi. Ma per Fidel le dimissioni sono un tradimento. Inaccettabili. Conscio e forse spaventato del seguito che fra la popolazione aveva Matos. E probabilmente dubbioso delle sue reali intenzioni. E manderà Camilo Sinfuegos ad arrestarlo. Raúl Castro e Che Guevara ne consiglieranno la fucilazione, ma tre ministri chiave, Manuel Rey, Faustino Pérez e Felipe Pazos, metteranno in dubbio la versione dei fatti di Castro e furono immediatamente sostituiti da uomini fedeli a Castro. Fidel Castro alla fine si opporrà alla fucilazione di Matos per non farne un martire, ed in effetti Matos aveva ancora un grande seguito. Durante il processo, che durerà 5 giorni, Castro dirà che Uber Matos vuole basare la sua difesa sul fantasma del comunismo, smentendo nuovamente tale affermazione come un tentativo falso di destabilizzare il governo rivoluzionario, salvo essere lui stesso, dopo solo 6 mesi, a dichiararsi comunista. Nel dicembre del 59 Matos verrà condannato a 20 anni di carcere. Sono passati meno di 9 mesi da quando l'abbiamo visto entrare vincitore assieme a Camilo Sinfuegos e Fidel Castro a La Habana. Come già detto, sconterà tutta la sua pena ed uscirà solo nel 1979. È rilasciato dopo 20 anni di umiliazioni e torture, come aveva fatto pochi anni prima durante il regime di Batista, viene forzosamente esiliato in Costa Rica, senza poter nemmeno mettere dei fiori sulla tomba della madre, nel frattempo morta, assieme ad altri familiari. Da lì si trasferirà a Miami, dove sarà per decenni un punto di riferimento della dissidenza cubana, e raccoglierà la sua storia e le sue memorie in un libro, Como llegó la noche, Come venne la notte, su cui si basa buona parte di questo episodio. Nel libro egli scriverà: la prigione è stata una lunga agonia da cui sono uscito vivo per volontà di Dio. Ho dovuto fare scioperi della fame, montare altri tipi di proteste. Terribile. A intermittenza ho trascorso un totale di 16 anni in isolamento, costantemente informato che non sarei mai uscito vivo, che ero stato condannato a morire in prigione. Erano molto crudeli, nella massima misura di questa parola. Sono stato torturato in diverse occasioni, sono stato sottoposto a tutti i tipi di orrori, compresa la perforazione dei miei genitali. Una volta, durante uno sciopero della fame, una guardia carceraria ha cercato di schiacciarmi lo stomaco con lo stivale. Cose terribili. Uber Matos, protagonista assoluto della rivoluzione, uno dei 3 comandanti che entrò a La Habana, morirà in esilio a Miami il 27 febbraio del 2014. Tengo il compromesso di regresare a Cuba. Il compromesso di regresare a Cuba. E se la vita mi accompagna in alcuni añitos más, espero que esa oportunidad se dé, porque yo creo que aquello está aproximándose a un desenlace. Regresaría tratando de ver qué se rescata de los valores que se han perdido en todos estos años, en esos 50 años de régimen castrista. El daño en la economía es serio, el daño en institucional es terrible, porque la República ha sido convertida en cualquier cosa, un feudo, una finca, un prostíbulo, un manicomio, pero no una república. Creo que hay que estructurar de nuevo institucionalmente la República. Pero pienso que el daño mayor es en lo que concierne a los valores morales. Sí, el daño es aparentemente irreversible. Es decir, hay millones de cubanos que han, se han convertido en gente de doble moral, de doble rostro. Eso en cierto modo es irreversible. Pero hay mucha gente buena en Cuba, mucha gente con virtudes, mucha gente que no se ha maleado en Cuba. Y hay mucha gente en el exilio que representa una reserva moral formidable para la nación cubana. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Runtime Radio ha presentato Delenda Cartago, un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo, prodotto da Simone Pizzi.